Questa invece è l'ambra che fondo. E questo è un pezzo naturale. Ma ne stacchi dei pezzettini e la riutilizzi? Sì, qua l'ambra è morbidissima, per cui con il seghetto, se tu vedi qua è stata segata con il seghetto, perché vedi è morbida, taglio dei pezzi e la utilizzo sia così come la taglio, insomma, usando le carte vetro e le paste per lucidare, la lucidi come diventa così trasparente e lucida.